il secondo appuntamento della settimana, martedì replicato il giovedì su Rock FM con la voce di Marco Gravelli che vi dà il benvenuto. Ben ritrovati insieme con lo spazio di Hub & Heavy offerto da Mariposa Dischi, Corso Lodi numero 1 qua a Milano. Come sempre saluto e ringrazio Simone per aver preparato i testi di questa sera, serata dove troveremo l'incontro effettuato dalla nostra Claudia con Tarja Turunen, ex cantante dei Nightwish. Presenteremo l'album che uscirà tra pochissimi giorni, quindi grosso della puntata odierna sarà incentrato proprio con l'intervista. Ma per non perdere tempo andiamo subito a parlare di questo nuovo album già presentato con una traccia settimana scorsa. Stiamo parlando degli Hardcore Superstar, il gruppo svedese precisamente di Göteborg, composto da quattro elementi che propongono un ottimo, ma veramente ottimo sleazy rock. Gruppo che risale al 97, ha debuttato nello stesso anno con l'album It's Only Rock and Roll, pubblicato solo in Svezia. Questo album gli è valso un contratto con la Music for Nation, che nel 2000 pubblica Bad Sneakers and Pina Colada in tutto il mondo e contiene le tracce del primo album riregistrate ed altre nuove, tanto che ufficialmente si è soliti considerare questo come il loro album d'esordio. Il lavoro ottiene un buon successo anche qua da noi. Seguono altri tre album, l'ultimo è stato l'omonimo Hardcore Superstar, che raggiunse la posizione numero 12 in Svezia. Da poco è uscito questo Dreaming in a Cascade, disponibile edizione limitata con bonus DVD. Ricordo che la band suonerà dal vivo in Italia per quattro date: l'8 dicembre a Pinarella di Cervia, il 9 a Verona, l'11 dicembre a Roma, il 12 a Milano. Li ascoltiamo con Medic and Me, Hardcore Superstar. Pochissimi giorni sul mercato, Dreaming in a Cascade, questa era Medic and Me, il gruppo naturalmente quello degli Hardcore Superstar. Altra band che arriverà a suonare tra breve, si parla degli Axis, band tedesca, attivi a livello discografico dal 1988, quando grazie ad un demo ottengono un contratto con la EMI che ne pubblica l'album d'esordio, Kingdom of the Night. Tutto questo nel 1989, fu l'album di debutto tedesco più venduto di tutti i tempi e gli valse anche un tour di spalla ai Black Sabbath. In questo nuovo Doom of Destiny è uscito lo scorso weekend, un prodotto molto interessante. Per quanto riguarda la line-up, c'è da segnalare che il batterista André Hilgers milita da alcuni mesi anche nei Rage, oltre che già da tempo nei Silent Force. L'album è stato mixato dal celebre Dennis Ward. Ci sono 10 tracce più un intro, una bonus track cantata in tedesco e un videoclip. Vi dicevo che suoneranno in Italia, suoneranno con i Gamma Ray e gli Helloween la prossima settimana, 27 a Roma, 28 a Milano Alcatraz. Le parti femminili dal vivo verranno curate dalla cantante Ana dei rumeni Magica. Gli Axis li andiamo ad ascoltare con il brano dal titolo Blood Angel. Tratto da Doom of Destiny per la formazione dei tedeschi Axis. E andiamo a concludere, perché come già detto tra breve vi lascerò insieme a Claudia con una lunga intervista con Tarja Turunen, già cantante dei Nightwish. Chiudiamo con questa interessante band, interessante lavoro uscito la scorsa settimana, To the Nameless Dead. Si chiamano Primordial, è una celebre metal band irlandese. Ottime recensioni, sta ottenendo praticamente il massimo dei voti su tutte le riviste specializzate. Gruppo nato nell'87, nel 95 pubblica il primo album Im Rama. In principio suonavano un melodic black metal, ma poi le sonorità si sono evolute verso uno stile più epico, folk e celtico. Ripeto, sono irlandesi. Questo nuovo album è disponibile anche in limited edition con digibox, copertina differente, un booklet di 40 pagine e soprattutto un DVD dal vivo con 6 tracce registrato nel 2005, questo concerto durante il Rock Art Festival. Vi lascio con il brano che apre l'album, si intitola Empire Falls dei Primordial. Noi ci ritroveremo naturalmente ancora domani sera dalle 20 alle 21 e tra pochissimo l'intervista di Claudia con Tarja Turunen qua su Rock FM in Arden Davy. Ciao! Abbiamo ascoltato una canzone che in questo periodo è trasmessa molto spesso e molto volentieri, una voce meravigliosa, e tra l'altro posso anticipare, per l'invidia dei maschietti l'ascolto, che non solo la voce è meravigliosa ma anche la ragazza in questione, visto che è veramente bellissima. E sto parlando di Tarja, che abbiamo appena ascoltato con I Walk Alone e che in questo momento è qui con noi. Hi, welcome to Rock FM. Thank you very much and thank you for your kind words. I could understand some Italian. Yeah. What did you understand? That you were talking about my voice, first of all, but not only the voice. For the male that are listening now, you should be jealous, because not the voice is beautiful, but also her. How are you? I'm very fine. I'm very, very happy to be in Italy. Yeah. It has been a long time since last time, so... You're happy now. Yeah, I'm very happy. Allora, sto molto bene, contenta di essere in Italia, dice, da un po' che non passavo dal vostro paese, quindi sono molto felice. E tra l'altro ha capito anche l'introduzione che ho fatto su di lei, e giustamente magari tra le diverse esperienze on the road, una cosa quell'altra, diversi concerti, qualcosina d'italiano l'ha imparato. Allora, I Walk Alone è il primo singolo di quello che è il suo primo album solista. C'è già stato un album nel 2006, un album di Natale con dei titoli assolutamente impronunciabili, almeno per quanto riguarda me. Questo comunque è il suo primo e vero album, My Winter Storm. Quindi volevo sapere da Tarja come, magari il come lo sappiamo, però in che momento, insomma, e come nascono le canzoni di questo nuovo album. So I was saying that this is your first record apart from the one, the Christmas one, with those titles. So, very, very hard to pronounce them apart the English ones. No, it's okay. It's okay. No problem. How do you say the title? Because the listeners were laughing at me. Henkäys ikuisuudesta, the Christmas album. Ecco. Henkäys ikuisuudesta. I was saying something very close, totally different, totally different. But you know, it's very nice to listen to it. But the language is very hard. Yeah, it is. Talking about your solo career, we kind of know how it started and everything. But what about these songs, and what about your solo career? Where and when and how did you start thinking about the songs and about your record and about the fact of going, you know, with the coming back with the new record and yeah, stuff? Yeah, of course. Well, the planning for the record, it was, I needed to do it very well. It took me around 1 year really to plan everything carefully, because as it's said, you know, that when you plan something carefully, it's half done. Mm-hmm. In this case, it was really like that, because the production took only 3 months. It was from the June until the end of August, and everything was done. The choirs, the orchestra, all the musicians involved, everything. The whole big production in a so short period of time. So I started planning for my album actually last year. Mm-hmm. Only I was making also my Christmas album in Finland, but it was so different. It was a side project. Christmas music is a Christmas music. It's not it's not talking that much about me and my personality or about me as an artist. Mm-hmm. But now My Winter Storm, definitely it's about me. It's Tarja. It's me. Yeah. And but how was it? I mean, after what happened with Nightwish, and I guess, and I think you were like kind of disappointed, and maybe you didn't really want it to go on with music, because maybe you were... You know, what is it? I have been a singer... I don't have that long career still. I have been in a metal band for 9 years, having a background in a classical music, having a really strict education. I have been working with my voice for so many years, very, very hard. You know, that is the only thing. Singing is the only thing I know the best. Mm-hmm. And that was the only way I could go on with my life. Whatever crisis you are, you know, facing in life, in general, I was facing a crisis, you know, my ways with Nightwish departed, fine. I had to find my way to continue making music. And it was incredible in the end of 2005, when I was having a small concert tour in Finland and in Europe, organized already. I had to go back to the stage. I had to face the people. I had to see tears in their eyes. I had to see their emotion, seeing me back as myself, performer. Mm-hmm. So I saw that people, they truly have a place for me in their hearts. Yeah. And that was the most important fact. Then I realized that, okay, well, this is what I can do. This is me. This is what I want to do. Mm-hmm. I mean, with this voice, I mean, what would have been a shame, you know, to... Oh, well, I have been very lucky. It's a gift from God, you know. It's a really a huge gift, but yeah. It has been a lot of work. And it is that. Every day I have to work very, very hard to, you know, make progress. I'm a girl that I want to make a progress. If I would sing an opera aria now, mm-hmm. that I sang 3 years ago, and I'm like, I cannot handle it. It would be a catastrophe, so big catastrophe. it's a mess. I always want to make progress. Yeah, it's really a gift of God, as you said, the voice. You know how many times I'm singing on air, and the listeners are like, please, no, please. Shut up. No. We pay you just to... Yeah. So it's really... Yeah, they insulted me. I tried to sing Window Change from Scorpions. Come on. It's really a gift. Okay, now I translate everything. Allora, abbiamo parlato un po' dell'album. Ho detto, com'è stato un po' l'inizio della tua carriera solista? A parte comunque il famoso album di Natale di cui lei ha pronunciato il titolo, perché a me usciva completamente una versione diversa. E dice... E poi abbiamo parlato di com'è stato comunque continuare, perché... quello che è successo sicuramente con i Nightwish l'ha segnata, però lei dice sono assolutamente positiva, sono ottimista, anche perché io ho cantato in una band metal per 9 anni, comunque mi sono data alla musica lirica anche per diversi anni prima dell'esperienza con i Nightwish, quindi cantare è quello che io so fare, quello che amo fare più al mondo, ed è giusto che io continui con la mia carriera solista. Dice, per arrivare a questi risultati comunque io mi impegno tanto, mi sono impegnata tanto ai tempi, mi alleno ogni giorno. Dice, la mia voce è un regalo di Dio e quindi è giusto che la metta ancora a disposizione comunque dei miei fan, anche perché ho visto in occasione di alcuni concerti nel 2005 in Finlandia la reazione dei fan, alcuni hanno pianto per il fatto, insomma, per quello che era successo con i Nightwish, alcuni invece erano felicissimi per vedermi, per avermi ancora una volta sul palco, e quindi quando vedi le emozioni così positive della gente capisci che è proprio il caso di andare avanti con una propria identità, perché dice l'album di Natale, per quanto possa essere bello una cosa o quell'altra, comunque non sono io che parlo della mia vita, della mia musica, delle mie esperienze, sono canzoncini di Natale, punto. Mentre invece con questo album My Winter Storm ho parlato ed esprimo quelli che sono i miei sentimenti, insomma tutta la mia vita. Tra l'altro mi diceva che la produzione di quest'album è stata molto veloce, 3 mesi, e quindi anche forse perché proprio c'era questo desiderio molto forte di tornare con un album e di far sentire nuovamente la sua voce molto molto bella, e quindi anche tutto il lavoro svolto intorno a appunto all'album è stato molto veloce. Tra l'altro il primo singolo I Walk Alone, maybe was it the choice you made, like I Walk Alone as a first single because you were like coming back, or was it like natural? How did you... It's funny, you know, I totally understand that many people are thinking that this is like a statement from me now after a long year having been as a front woman in a band. But it has a lot more poetical meaning for me, this song I Walk Alone. And I have to tell you that I didn't write this song. There were two Swedish guys that wrote the song and the lyrics, and I felt it very personal, that song. And that's why I really chose the song. It gave me the whole title of my album, My Winter Storm. It came out of the lyrics of I Walk Alone. One day I realized when I was going to the studio to just rehearse the song, it said, my winter storm holding me awake, it's never gone. I realized, what is my winter storm? They are my fans. Mm-hmm. They have been a winter storm for me. They have been like a storm, beautiful, energetic power behind me, holding me awake and never being gone. Mm-hmm. And that has been the biggest inspiration. They have been my inspiration for the album. Wow. Mm. And what about you were saying that who did you write the song with? Alone, or is there someone who you collaborated with? Yes. There were several songwriters involved and writing songs with me. And on my own, I wrote songs for the first time of my life. You know, which seriously. Is, I mean, starting a solo career like yours, it's nice in a way, because you do what you want. You are the boss. I have a freedom. I have a freedom to do things. I don't share my artistic vision with anybody. And in a way, it's scary to think that there have been so many people involved in the process working for me and alone for me. It's a little bit scary. If I think that I have so big responsibility, I need to take responsibility of all my actions, all my decisions. I'm responsible for my things, what I'm doing now. So I am still in a very early in the progress of this. I don't have my first album even released. It's gonna happen in a couple of days, but come on, it's beautiful. Yeah, it's nice. It's something like very new. Like a new baby born in me, in a way, like, it's like that. So how, for example, from the past, what did you, the things that you learned that you used for this new experience, like so many, right? It has been a musical growth in me. When I was in Nightwish, you know, I was a really young girl when I started. You're singing. Super young. No, salak. I have all my wrinkles. Me too. No, but give me a break. I was a very young girl when I started singing with Nightwish, and I grew up as a woman in the band, touring all around the world. All these experiences, you know, I'm still carrying in my heart. And the music itself, what we were making music together, it was always working. Mm-hmm. There were other problems, you know, but the music was very special, very unique and magical thing. So, of course, all those experiences from all those years I'm carrying with me, they are part of me, they are part of my personality, part of my artistic view. And I'm taking some elements from metal, you know, along with me in the album of my Winterstorm. It's not telling the whole picture of me. Metal music, it's one point of interest of me. Yeah, one of the many sides. One of the many others. But so was it easy writing songs? Oh, if you say that, was it easy? For me, was the biggest challenge was to have the courage to write the songs, you know, to really have the really stop and create music, being aware that, okay, people will definitely hear about this later on. Not that only am I writing songs for only myself. Yeah. It's a totally different situation. But I really enjoyed it, you know. I was having so great teachers. Wow. That's amazing. Bene. Allora, abbiamo parlato un po' di quello che è stato il lavoro dietro alle canzoni e dietro comunque a questo album. Ci sono diverse persone che hanno collaborato con lei. Però parliamo da, torniamo a quella che è stata la prima domanda. I Walk Alone è stato il primo singolo. E Tare dice, in molti sicuramente hanno pensato che I Walk Alone, Cammino da sola, fosse quasi un ritorno naturale, no? Dopo quello che era successo con i Nightwish, invece non c'entra niente, perché c'è più una storia poetica dietro alla scelta di questo titolo. In realtà I Walk Alone e anche My Winter Storm è tutto dedicato sicuramente a quelli che sono i miei fan sono la mia tempesta, nel bene comunque, come emozioni, come energia, dice, perché io, insomma, dopo tutti questi anni, dopo tutto quello che è successo, ho capito che io continuo grazie a loro, grazie a comunque il supporto che arriva proprio da parte dei miei fan, dice. E questo l'ho capito in particolar modo anche quando stavo scrivendo il primo singolo, anche se poi ci sono state diverse collaborazioni in questo album. Alcune canzoni sono state scritte solamente da Tare, altre invece sono state scritte in collaborazioni con musicisti. Ho detto, ma insomma, iniziare la carriera solista è anche bello, perché prima sei in una band, giustamente hai a che fare solo con uomini, e questi magari non sono molto open minded, e quindi inizi come donna da sola, c'è anche una certa adrenalina, una certa emozione, e dice, è una bella responsabilità, perché non scrivo canzoni per me, e insomma, prima o poi giustamente tutti li sentiranno, tra poco l'album è sul mercato, e quindi tutti avranno modo di sentire quello che io ho fatto, e questa sicuramente è una grossa responsabilità. Però dice, quando ho iniziato con i Nightwish ero una ragazzina, ero molto giovane, e quindi la musica era la cosa più importante per noi, e tutta l'esperienza che ho fatto con loro on the road, come tournée, tutto mi ha insegnato parecchio cose che ho portato comunque in questo mio primo album. E dice, però sicuramente in questo caso l'album è Tare al 100%, senza altre band, è lei, e quindi insomma lei sta tornando ed è lei, punto. E la gente deve scoprire questo, dice, c'è l'elemento metal, ci sono diversi aspetti di Tare in questo album, anche se non sono tutti, comunque è talmente giovane, ha una vita davanti per dimostrarci poi più avanti anche gli altri aspetti appunto di Tarja. Noi allora abbiamo ascoltato I Walk Alone, che è il primo singolo di questo album. L'album uscirà il 23 novembre. Adesso ci prendiamo una piccola pausa e ascoltiamo un altro estratto di My Winter Storm, che è il Lost Northern Star. Rock FM Spot Live presenta Halloween e Gamma Ray Alice Tour 2007. Doppio headliner dalla terra teutonica. Gli Halloween di Wake Up e Daris, i padrini del power metal, e i Gamma Ray di Kay Hansen daranno vita ad uno show esplosivo, all'insegna dell'energia che solo il metal teutonico sa dare. Special guest della serata, gli Axis. Mercoledì 28 novembre all'Alcatraz di Milano, in via Valtellina 21. Infoline 055 55 20 575. www.liveinitaly.com. In collaborazione con Rock FM. Ritornano gli Halloween e questa volta scommettono con il diavolo. Gambling with the Devil, il loro potentissimo 12° album. Halloween, Gambling with the Devil, melodiche, speed, power metal all'ennesima potenza. Nei migliori negozi, distribuito da Audioglobe. Heaven Sound Promotion organizza Music Village, l'unico evento capace di riunire le migliori band emergenti di tutta Italia con il mondo della discografia. Music Village, 14-18 dicembre a Monte Campione, Brescia. 5 giorni di musica, divertimento e formazione musicale. Partecipa anche tu. Infoline 02-9143-4507. www.espromotion.it. I'm the one who leaves shadows in your eyes. Abbiamo ascoltato un'altra canzone di Taria. Is it okay if I call you just like Taria? No? Come on, it's me. Taria. It's Taria like in an album cover you say only. You don't see Taria Turunen. Yeah, exactly. Taria. Bello, ci piace. Poi, ecco, loro, anche lei è una bella R. Taria. Oh. My Winter Storm è il titolo del suo primo album solista, in uscita il 23 novembre. Abbiamo ascoltato un'altra canzone che fa parte di questo nuovo lavoro, una voce meravigliosa. Allora, abbiamo parlato nella prima parte dell'intervista di come è iniziata questa sua carriera, di come insomma ha scritto le canzoni. Parliamo della band. Perché giustamente tra poco ci sarà anche un tour, immagino. Chi è la band che c'era con lei in studio? Poi sarà la stessa che ci sarà in tournée. So who are your musicians? Well, they are the musicians. Mike Terrana, I know. Yeah, he's such a great guy. Yes. He's the funniest and the great. He's a crazy, but he's a very professional musician. Yeah, he's half Italian. Terrana. Right, yeah, hey, you are right about that. I never thought about that. Yeah? Wow. Sicilian. Really? Yeah. Oh, I have to talk about this with him, really? Yeah, every time he's in Italy, he's just food, and he's like, fun because he's like, I'm Terrana, I'm Italian. Yes. So he wants Italian food, he wants Italian wine, he loves Italy. Oh, wonderful. Oh, well, we will have something to discuss. Yeah, then. Exactly. It's amazing. Well, I have a really great lineup with me, you know, in a warm-up tour in the end of the year that I'm doing now, only for 10 shows now in the end of the year. There are some people already that were recording the album. Doug Wimbish, for example, in bass. He's most known as a Living Color bass player, but he has been, you know, collaborating with very, very big names and lots of artists. So then there is electric guitar player Alex Scholp from Germany, and he was a new person for me. Actually, when I was deciding musicians for my album, every musician has a reason to be there, you know, that because of their background, because of their sound, or because of their personality or character. I chose all of these musicians there, and now I have a great opportunity that some of them will even join me in a live situation. So in a way, having that kind of band feeling in the background, which makes me very happy, which makes me this kind of security, mm-hmm. that the guys, I can really, honestly, I can trust them, and they have been working with me. Yeah, they know the songs, they know the music, they know me. Yeah, because being on the road, it's like you have to live with these people. Of course. So at the end, it's like a family. Exactly, but now there will be 7 people on a stage with me. Oh, 7? Oh. So there are many people. There are 2 cello players from Finland. Yeah, some classical instrumentalists, and keyboard player Maria, girl from Finland. I've been playing with her some Christmas concerts, classical concerts. My younger brother Toni Turunen, he's gonna be playing there with me, some additional instruments, singing some duets with me. Nice. Part of the family on the road. Yeah, exactly. But then Mike, Doug and Alex, so many people. Mike Terrana, ecco. Terrana. Allora, le ho chiesto se i musicisti che hanno lavorato con lei sull'album saranno poi quelli che porterà on the road. E tra l'altro abbiamo scoperto che sul palco saranno veramente in tanti, perché ci sono 7 elementi, ci sono anche 2 violoncelli, c'è una tastiera che viene suonata da Maria, che è questa ragazza che aveva già collaborato con Taria ai tempi per alcuni concerti di Natale, c'è il fratello Toni Turunen. Ecco, perfetto. E poi perfetto. Toni Turunen. E poi c'è ovviamente il buon Mike Terrana, che si occupa della batteria. Tra l'altro si scherzava, però Mike Terrana ogni volta che è in Italia è la persona più felice del mondo, visto che ha origini italiane. Dice, allora le ho spiegato, Taria, guarda, quando sarete in Italia vedrai, ti divertirai, perché lui ama il nostro paese. E gli dice, ottimo, non avevo collegato le 2 cose, sicuramente avremo un argomento di discussione. E poi, insomma, c'è anche il bassista che aveva suonato con il Living Color, e comunque è stato turnista di altre band molto importanti. Il chitarrista, se non sbaglio, è tedesco, Alex Scholp, e dice, io sono praticamente diverse le qualità che cerco in un musicista. Ovviamente deve essere un buon musicista e deve comunque essere, deve essere una persona della quale io mi fido sotto diversi aspetti, anche perché poi saremo on the road, saremo una famiglia, e quindi sono persone delle quali io mi devo fidare, che devono comunque essere ottimi musicisti e conoscere alla perfezione le mie canzoni, in modo da insomma dare un risultato perfetto. Per il momento ci saranno 10 date, si sta preparando, e insomma ci sono delle prove. Are you coming to Italy? Not this year. Why? No. Well, but you know, yeah. 2007, it's almost done. So. It is, exactly. And you know that I was, in a way, having this opportunity now only for 10 shows in Europe, in a way, except Italy, unfortunately. Mike will be very disappointed. Yeah, I know. No, but definitely the plan is for April 2008, mm-hmm. this year, that we are starting the world tour, and it will include also, of course, many, many times in Europe. And Italy will be definitely, you know, one of Italy the countries. Italy misses you. I know. I have to be honest, you know, I have opened the official blog through my webpage, and I have been writing down all the information, you know, what's happening with the album and so on, sent some pictures, and Italian people, Italian fans have been really closely, they have been there sending messages for me, and I really want to thank about that, because it's a has been a really beautiful thing to know. Mm-hmm. I really missed here, and that's great. You'll be back. I will be back. What are you preparing? I mean, now everything is like you are doing everything, so once the record was done, what are you thinking for the tour? Any kind of, ooh, like... You know, in 2 weeks' time, we're having the first concert in Berlin. I have had not that much time to plan and arrange the new arrangements for the songs, but I'm so excited about it. I really miss that feeling to see people closely, to have that communication between me and the audience, and that kind of really magical moment that I have always got from the audience. They are the diamond, they are the heart, they are the reason for the artist to be. So I really miss that. So the my plan for the concert is to make it quite theatrical. Mm-hmm. I love this kind of really strong, crazy makeup with all the clothes that I'm now. I have been playing around with the four characters in the album. Also, I won't be playing with four of them, but at least one of them in a concert, because it will take makeup for 3 hours for each of them. Yeah, so exactly. Change over half an hour. Concert for a whole day. Yeah. No. But people will see the same Tarja on the stage that they saw for many years. Yeah, but it's nice that we are girls, so we'd like to study, you know, stuff with makeup and dresses. It's nice, this kind of imagination that you can have. You can have a freedom to choose things and to plan things and visual things. It's a very, very beautiful thing to be. Yeah, and soon, wow, in 2 weeks, first show? The 25th of November. Wow, and then you said world tour, are you going to the States as well? Definitely, in some point, yeah. Yeah, nice. And in Asia, and in South America. Wow. So you'll be home in 3 years? Nah, come on. I want to take it very relaxed. Since I have been touring for so many years without any breaks, you know, I have some black holes in my memory, times back. You know, I don't remember places I have been. Probably only the concert times. Only the venue. But I don't remember, have I been in... No, I don't want to mention a country, but really... It's hard to think back since I have been having this kind of tunnel, you know, mm-hmm. in front of me. I have been living in a tunnel, in a black tunnel, for so many years. Having so busy life that I don't want to get back that feeling. Mm-hmm. That's why I have been organizing the tours, and also 2 weeks legs, maximum three weeks that I can get back home to rest, mm-hmm. have time for my family, have time for myself, get back my condition and go again. That way I can give for the people what they expect. Mm-hmm. And that way I can give them the best I can give them. To be happy about it, to be loving music, and to be able to love the people. That if you're stressed important. And tired... Yeah. No, it doesn't work. It doesn't work. No. It works until some point when you are collapsed, and then there is no way back anymore. See, Britney Spears, what happened? Well, no, of course, yeah. I totally know. That's something that came to my mind. Yeah. But sometimes, you know, when you're stressed and everything is everyone and everything is on you, you are like, no, leave me alone. Yeah. So you're doing in a good way, you know, very good choice. I hope I can. Allora, tra pochissimo avrà il primo concerto a Berlino, è molto emozionata anche perché tra poco inizierà questa avventura. Le ho chiesto se sta studiando qualcosa di carino, gli ho detto dai, siamo donne, insomma, adesso sei tu che ti occupi anche del palco, dell'aspetto visivo, e dico, che fai di bello? Allora dice, ma sì, sarà tutto molto teatrale, avrò un bel make-up di quelli pesanti, insomma, un po' così, con questi bustini, con questi abiti che vedete anche poi sulle copertine. Dice, ovvio che non ne cambio 3-5 perché sennò poi diventa un concerto di una giornata, però insomma mi piace anche la libertà di poter così dare anche questo aspetto, di dare insomma queste cose anche ai fan, perché è bello sentire un concerto, ma è bello anche vedere qualcosa, insomma, anche se con lei già l'80% del lavoro è fatto, visto che è così bella, e quindi insomma, però giustamente siamo donne, vogliamo aggiungere altri elementi. Sarà in giro tantissimo, andrà in America, in Asia, in Japan, you said? Asia. No, in Asia, insomma, andrà in giro, sarà in giro in tutto il mondo. Le ho detto, ma quindi torni a casa tra 3 anni? Le dice no, assolutamente no, perché in passato cos'è successo? Lavoravamo talmente tanto, avevamo una data via l'altra, e quindi ho dei vuoti di memoria. Dice, io non ricordo niente di nessuna città, ricordo solo i locali in cui ho suonato, e dice è come un tunnel nero, non voglio ripetere la stessa esperienza, quindi per la prossima tournée suoneremo magari per 2-3 settimane, voglio avere il tempo necessario per tornare a casa, per stare con la mia famiglia, per riposarmi e per tornare poi in forma per altri concerti, per dare alla gente quello che giustamente si aspetta, perché se sei stressata e stanca poi sul palco non rendi, e diventerebbe il dover suonare. Dice, non voglio arrivare a questo, perché comunque l'aspetto live è anche talmente una cosa bella che non mi va ovviamente di rovinarla. Va bene, allora vi ricordo che tra pochissimo arriverà Taria, primo album, My Winter Storm, partirà anche il tour in Italia, mannaggia non arriverà prima del 2008, si parla del mese di aprile. You see, all the guys are sad. Well, I know, I'm crying here. All the guys are sad. April 2008, maybe. Yes. But hopefully. Dice, tra l'altro, ecco, Taria dice, vorrei ringraziare il pubblico italiano. Dice, io ho un mio blog dove comunque ho aggiornato tutti sull'album, ho messo delle foto, insomma, parlavo delle mie esperienze, e il pubblico italiano è sempre stato molto caldo e mi è stato molto vicino. Li voglio ringraziare, perché questa è stata una cosa sicuramente molto molto molto importante. Any contacts, like websites and stuff you wanna remind? Well, there are many, many websites. Of course, my own website, tariaturunen.com. .com. Tariaturunen.com. Yeah. E l'ha detto praticamente in italiano. Of course. That is going to be updated with everything. Yes, so mywinterstorm.com. Mywinterstorm.com. Così, maschietti, che è partito l'ormone, guardate quando appunto Taria tornerà in Italia. Because now they're like, oh, but they're sad. So they're going to check the website every day when she's coming back. You know, that's the Italian man, very passionate. I know, but I love it. Yeah, that's I like it too. I really like it too. Allora, tariaturunen.com o mywinterstorm.com, li troverete tutti gli aggiornamenti, date, concerti. Are you going to like write a sort of diary? Or do you have the time to do that? Oh, you know what I'm doing actually is for my own, you know, for my own health in a way, and my spirit, my mind, my good mind, to keep that kind of good spirit for myself. I'm writing down almost every day what things I have learned today and what things I still need to learn. In a way, putting those things in paper in front of you, you might understand them much better than having them only inside of you. Yeah. It's mind game. It's kind of a mind game that I have started to play around. It's not that serious, nothing like that, but it helps me to understand myself. That has become very important. But keeping a diary is something that I really miss, because I have been traveling all around the world. It would have been fantastic to put up the things that has been interesting, fantastic, and experiences. So I have lost a lot in a way by not doing that. I have to admit that, of course, but You know, life is like that. You learn one thing, you lose another thing. Yeah. So, no, just I ask you because maybe we were going to check the website soon to see how was the Berlin show. And, yeah, of course. I will be writing about okay, the blog. Yeah. Yeah, I will be writing that some experiences in a blog. Yeah, definitely. That I do. Yeah. Okay. Allora, se controllate i siti, gli ho chiesto se lei magari tiene una specie di diario. Dice, beh, ovviamente quando sei in tour hai mille cose da fare. Guadagni qualcosa, ma perdi anche qualcosa. Dice, scrivo di solito, metto su carta quello che ho imparato. E dice, è più facile scriverlo, e, perché se poi non lo fai, se lo tieni solo in testa, diventa un po' un casino, ti confondi. Però dice, sì, anche per quanto riguarda magari gli show di Berlino, anche perché insomma sono le sue le prime esperienze, dice, terrò un blog. E quindi se andate sui siti che vi abbiamo appena citato, sarete molto, molto aggiornati. Well, thank you very much for being here. Oh, thank you. And go and kick some ass. Thank you very much. I hope that you will. You Thank will. You. And you know we are waiting for you in Italy. Thank you very much. Okay. E ci ascoltiamo un'altra canzone che fa parte del primo album di Tarja. TarjaTurunen.com, ricordiamolo. Abbiamo ascoltato il singolo I Walk Alone, abbiamo ascoltato Lost Northern Star, adesso un'altra che fa parte sempre di questo primo album, My Little Phoenix. Thank you very much again. Thank bye you. Bye. Ciao ciao. She said.